Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, siamo pronti, sono le 11:07. Andiamo a sentire i titoli del nostro sommario, ma prima ringrazio Paolo Corleone in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Andiamo. Famiglia, dalla quiete alla bufera. I nostri sensi al buio. Profumo, scegli con noi quello giusto per il tuo Natale. Allora, oggi litighiamo e quindi vi invito subito a chiamare il nostro numero verde per raccontarci quali sono i motivi e le situazioni che vi fanno litigare con vostra moglie o vostro marito, la suocera, i soldi, i figli, i parenti, la destinazione delle vacanze, ma aggiungerei anche le briciole sul divano, i calzini dimenticati in giro, la pasta scotta, gli slip che diventano rosa, perché spesso le litigate furiose partono da dettagli. È un tema, quello di oggi, che sono sicura tocca a tutti noi, non solo perché, come diceva la canzone, l'amore non è bello se non è litigarello, ma perché la coppia è proprio un po' come il mondo della finanza. Prima o poi la crisi arriva per tutti, ma proprio come la finanza insegna, prima o poi dalla crisi si può uscire, almeno questo lo speriamo. Ne discuteremo oggi con i nostri amici ospiti, due sono in studio con me: Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, il mensile della Mondadori. Ciao Alessandro, bentornato. Grazie, ciao Nicoletta. Con una splendida cravatta rossa, sei natalizio. Certo. E qua in studio c'è Alberto Pellai, che tra l'altro oggi festeggia con noi il suo compleanno. Ah, grazie. Allora auguri. Mi faccio gli auguri. Ed è diventato rosso come la cravatta di Alessandro Pellizzari. Ma in linea con noi, e per me questo è davvero un regalo, abbiamo Gianna Schelotto. Buongiorno, ciao, bentrovata. Buongiorno, siete voi un regalo. Che bello averti qua, anche perché Gianna eri stata qua a Radio 24, avevamo parlato del tuo ultimo libro, Un uomo perché sì, purché sia, Donne purché in attesa sia dell'amore. Un libro magnifico. E oggi invece io, per trovare ispirazione alla trasmissione di oggi, sono andata a rileggere, ed è un piacere, Per il tuo bene, Piccoli crimini in nome dell'affetto, che consiglierei alle coppie in ascolto. Quindi, perché tante volte per bene, no? Per il bene, sì, si fanno. La convinzione di, cioè, questa frase è terribile, dovremmo tutte le volte che la sentiamo dire o che sentiamo noi stessi dirla a qualcun altro, dovremmo comportarci come se suonasse un allarme, perché il bene, non possiamo fare il tuo bene, ognuno sa da solo il suo bene, qual è, o perlomeno lo dovrebbe sapere, e quindi quando si fanno le cose per il suo bene si finiscono col fare dei piccoli crimini, delle interferenze, degli egoismi, persino delle violenze, sia pure sotterranee. Senti Gianna, oggi noi parliamo di litigi nella coppia, si può litigare a fin di bene? Spesso si ha la sensazione di farlo a fin di bene. Per esempio, una delle liti più comuni nelle coppie un po' attempate è quella che riguarda la dieta. Allora, se lui ha il colesterolo alto, è vero, la moglie diventa una specie di aguzzina, cioè non mangiare questo, non mangiare quell'altro, e più lei dice non mangiare questo, non mangiare quell'altro, più l'altro si accanisce. La moglie è convinta di farlo per il suo bene, e l'altro invece, che non vuole che altri si occupino del suo bene, si intestardisce per continuare a mangiare quello che vuole. Si creano questi meccanismi che sono poi che non hanno niente a che fare con la dieta, che nascondono evidentemente antiche aggressività, scontentezze non rivelate, e che si manifestano attraverso questi piccoli pretesti proprio per scaricare la tensione e l'aggressività. Allora, invito i nostri amici da casa a intervenire chiamandoci al nostro numero verde 800 24 00 24, ma qua voglio fare subito un giro di tavolo e chiedere ad Alessandro Pellizzari, ad esempio, voi perché litigate? Sono le situazioni? Allora, io litigo, mi arrabbio con mia moglie quando scendo di gerarchia, nel senso che noi ci siamo fatti una gerarchia dove noi, come sai, abbiamo tre figli piccoli e lavori abbastanza così pesanti, fra virgolette, anche se piacevoli. Per cui nella nostra gerarchia di coppia noi siamo i primi, quindi sì, le prime attenzioni vanno verso di lei e verso di me. Poi la realtà travolge, perché i bambini sono i bambini, anche se si possono bypassare tutta una serie di cose. Io per esempio, io e lei usiamo moltissimo il telefono nei trasferimenti, perché sappiamo che poi quando si entra in casa loro ci aggrediscono e finché non vanno a letto e così. Allora io mi arrabbio quando mi accorgo che passo al secondo o al terzo posto, e devo dire che per quanto io mi arrabbi male, e questo è un mio difetto, faccio un po' la vampata, sì, e lei però riesce a calmarmi molto, lei capisce, perché sa che comunque è lei che perché anche è un socio fondatore della gerarchia, al primo posto la coppia, no? Assolutamente. Questo è fondamentale per noi. Alberto, invece tu perché litighi? In casa mia litigo perché io ho una moglie competente, molto brava, ma che nel tempo di un'ora organizza cose che avrebbero bisogno di 5 ore per essere fatte tutte. Quindi tante volte io la metto di fronte al dato di fatto: contiamo i minuti che ci servono per le 10 cose che hai programmato da qui alla prossima ora, e capirai che servono almeno 6 ore per poterle fare tutte. Alessandro ci ha detto: io mi accendo, ho una vampata. Tu sei un tipo che lascia un pochino passare il tempo prima di esplodere, sobbolle, oppure esplode? No, credo che una regola anche noi che ci siamo dati in famiglia è proprio quella che quando c'è un problema non si fa passare troppo tempo prima di, e tante volte, dicevamo prima anche con Alessandro, proprio si va a letto, e il tempo in cui si sta a letto, quando i bambini finalmente sono addormentati, un tempo in cui si parla di quello che ci sta succedendo, se c'è una crisi in corso. Gianna, sono molto competenti. Sì, molto bravi, devo dire, questo i due spunti che sono venuti dai loro due interventi, cioè quello della gerarchia e quello del discutere subito e non lasciare addormentare le cose, sono secondo me due elementi fondamentali nel rapporto di coppia. Ad esempio Alessandro Pellizzari, prima di entrare in trasmissione, mi diceva: ad esempio noi abbiamo fatto un patto, non andiamo mai a dormire senza aver risolto. Non si gira uno da una parte e uno dall'altra, a volte facciamo anche le quattro, però è una regola che aiuta molto, ed è una regola che io consiglio a tutti, perché veramente devi sviscerare, altrimenti allora sì che succede che ma hai preso di nuovo il goccio di whisky, fa crollare, come dire, un edificio. Sì, perché sono proprio talvolta i dettagli. Allora raccontateci le occasioni di scontro, ma anche come riuscite a fare pace. 824 0024, questo è il nostro numero verde. I messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. E quando si litiga tutti i sensi sono allertati, ma forse, dico forse, se provassimo a spegnere la luce qualcosa cambierebbe. Al buio infatti ci scopriamo diversi, percepiamo noi stessi e il mondo in modo nuovo. Forse riusciamo anche ad assaporare meglio gli stimoli che l'ambiente circostante ci offre. Penso ai suoni, ai sapori, ma anche al contatto, perché il buio è vero che nasconde, ma è vero anche che il buio attiva. E di recente si sono moltiplicate, non so se ve ne siete accorti, le iniziative a luce spente, concerti, degustazioni, pièce teatrale. Sono esperienze tra loro molto diverse, però che dimostrano che c'è una nuova sensibilità che riesce a cancellare le differenze e al tempo stesso a renderci unici e a darci questa consapevolezza. Ma tutto questo può essere interpretato e letto con un approccio scientifico. Ne parliamo con il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professor Barbanti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, è una domanda: quando c'è qualche cosa di difficile, vogliamo esplorare qualcosa di noi, la chiamiamo e lei trova sempre delle risposte. Speriamo di trovarle buone anche oggi. Beh, direi che il sottotitolo del stare al buio è Finalmente soli. Vorrei cercare di convincervi di come il buio sia, per un neurologo, interpretabile come una pista di decelerazione di un bolide. Il bolide siamo noi, spesso troppo lanciato. E allora proverò a passare in rassegna alcuni aspetti da neurologo in cui il buio possa fornire effetti positivi. Innanzitutto l'aspetto motorio. Noi ci muoviamo perché vediamo e perché abbiamo informazioni dal labirinto, quindi dal nostro equilibrio, e dagli arti tramite il sistema delle sensibilità. ce ne manca uno nel buio, quindi la vista, ed ecco che rallentiamo il tono, e questo è il miglior viatico per calare l'aggressività. Secondo aspetto, le afferenze sensoriali in genere calano, siamo meno distratti, siamo costretti ad usare altri sensi, in particolare incominciamo a sentire. Noi molto spesso, nella nostra civiltà in particolare, vediamo, parliamo ma sentiamo poco. E impariamo anche a sentire noi stessi, quindi un aumento della capacità di riflessione, un aumento delle capacità di ascolto. E sviluppiamo, forse senza accorgercene, la capacità di essere in attesa, quindi di porci in una condizione, direi, favorevolmente subalterna rispetto all'altro e rispetto al mondo. Un terzo aspetto, quello della cognitività. I processi mentali, i processi cognitivi nel buio rallentano, e questo ha un suo correlato favorevole, che è la tranquillizzazione. Pensate che sono state recentemente scoperte, descritte, delle cellule, dei recettori, meglio dire, che sono posti nella retina, che hanno un pigmento chiamato melanopsina, che non servono per vedere, ma che vanno a portare l'impulso visivo, specie la luce blu, nell'area dell'allerta e nell'area delle emozioni. Leggiamolo alla rovescio: questi recettori non vengono stimolati, siamo meno allerta e siamo meno, magari anche sfavorevolmente, emozionati. E però vorrei fare un ultimo spunto in cui inevitabilmente dobbiamo andare a finire, cioè la possibilità che il buio faccia emergere fantasmi. E questo è vero nelle due età estreme della vita, nel bambino ovviamente, sì, e nell'anziano in particolare se malato. Come neurologi siamo spesso oggetto di telefonate da parte di parenti che dicono che il loro congiunto anziano alla sera incomincia a vedere strane ombre e cose del genere. Ebbene, la vista rappresenta un importante puntello cognitivo quando il soggetto abbia un incipiente invecchiamento cerebrale. Ebbene, in quel caso il tramonto, la penombra, il passaggio al buio sarà il momento in cui questa persona interpreterà male quei pochi dati che la vista gli darà, magari la vista di per sé anche un po' invecchiata, e potrà agitarsi. Ma per il resto vedrei il buio come una straordinaria condizione di rilassatezza e di tranquillizzazione. Professor Barbanti, Alberto Pellai voleva intervenire. Alberto. Ma ragionavo proprio sul tema di oggi, che sono i litigi all'interno della coppia, e mi domandavo se in una coppia dove c'è un ipovedente si litiga in modo diverso, mancando in qualche modo quella spinta all'aggressione fisica che è un po' propria dei movimenti legati alla rabbia. Sono assolutamente d'accordo e credo proprio con un meccanismo direi abbastanza chiaro. Da un lato una ridotta aggressività sul piano motorio, il non vedente ha un minor grado di tensione muscolare sotto questo aspetto, proprio perché il movimento viene programmato con altri canali, e secondariamente anche questo aspetto di maggiore dedizione all'ascolto, maggiore attenzione. Quante volte l'aggressività tra le persone deriva dal fatto di non essersi perfettamente sentiti, aver interpretato uno sguardo e non averne sentito il contenuto verbale nell'interlocutore. Quindi sono perfettamente d'accordo e credo che sia una ricostruzione assolutamente plausibile. Professor Barbanti, prima di salutarla, lei perché litiga? Io le dico perché sono di origini romagnole, quindi sono un po' fumante, me la cavo così, con motivi di tipo genetico, geografico, ecco. Va bene, grazie professor Barbanti, buona giornata. Arrivederci a voi, salve. Pronto soccorso. Ah, è così, quando vi fa comodo io faccio parte della famiglia, quando non vi fa comodo io non ci faccio più parte. Guarda carina, che mia suocera, dopo 3 mesi che mi ero sposata, è venuta a stare da me, perché mio marito ha voluto così e io mi sono dovuta stare zitta. Comunque mio marito per me faccia quel che vuole, solo sappia che non appena i suoi mettono piede in casa mia, io faccio le mie valigie e me ne vado. Ancora? Ma dove me li metto che non c'ho nemmeno il posto? Ma come non ce l'hai? Ma metti Mauro a dormire nello studio, no? E allora tu, con una casa di 180 metri quadri, senza parlare del terrazzo, che non c'ha nemmeno figli? Ecco. Ecco, un altro buon motivo per far scoppiare una lite in famiglia: i parenti. E tra l'altro questo è proprio il loro momento d'oro. Dottoressa Schelotto, lei che dice? La suocera è diventata ormai una caricatura, anche se ci sono delle suocerine magnifiche. Ma quando si parla di parenti, li si aspetta, insomma, un po' di tensione. Cioè, Gianna Schelotto non la sentiamo più. Alberto, allora ti ripasso. Sì, intanto che la richiamano Gianna Schelotto, devi entrare tu, non come litigante. Guarda, ma come esperto di coppia. Allora, intanto ti dico che a casa di Nadia c'è un grande rischio di litigio. Oggi ha appena mandato un sms in cui dice che siccome il tema è troppo appassionante non esce più per fare acquisti, ascolta in diretta, quindi non sappiamo cosa metterà nel piatto alla famiglia allargata. E probabilmente però non litigherà per il budget. No, e in realtà ragionavo proprio mentre preparavi la trasmissione, pensa quante famiglie allargate sono in litigio in questo momento. Un tema classico di litigio delle nuove coppie è che devono organizzare il pranzo di Natale quando si sono magari appena sposati. Andiamo nella casa dei miei, andiamo nella casa dei tuoi, la mamma che dice non puoi non venire da me. E questi sono tutti quei motivi di interferenza molto forte che destabilizzano una coppia che ancora non ha un suo stile, un suo schema, un suo modo di essere, e se lo deve costruire nel tempo e col tempo. Quindi 824 0024 se siete in difficoltà, se avete una famiglia allargata, se i parenti vi verranno a trovare, se la suocera non vi piace. È tornata però Gianna Schelotto, che ci piace molto. Gianna, eccoti. Mi sono stata un po' tagliata fuori, quindi mi sono persa chissà quante belle cose che avete detto. Senti, abbiamo rigirato un po' il coltello nella piaga, perché abbiamo parlato di parenti. Chi non ha mai litigato una volta per la mamma di lui, la mamma di lei, i fratelli e non mi vogliono, e l'altra volta non si sono ricordati del mio compleanno, però dobbiamo festeggiare il suo. Insomma, Gianna, lo sappiamo, no? La famiglia pesa. La famiglia è al tempo stesso, come dire, protezione, sicurezza e prigione, e soprattutto le feste di Natale, come dire, accentuano tutto quello. Beh, io penso che il Natale sia una sorta di segno più davanti alle nostre abitudini, cioè se noi siamo felici a Natale siamo più felici, se andiamo d'accordo a Natale andiamo più d'accordo, ma se invece siamo scontenti e invece se siamo arrabbiati a Natale siamo più arrabbiati, perché è una specie di fissatore questo evento dell'anno che tutti, come dire, un po' disprezziamo, un po' critichiamo, ma ne siamo poi così profondamente coinvolti. Quindi il Natale con la famiglia porta dentro tutte le contraddizioni di tutto l'anno. È come se dentro questa oasi che dovrebbe essere di affetto, di pace, di legame, esplodessero le contraddizioni che forse per tutto l'anno si sono tenute a bada. Sergio, taxista di Milano, ci scrive: io vado dai miei e lei dai suoi, ci siamo arrivati dopo 18 anni. Ecco, vedi che alla fine poi le coppie trovano il passo. Andrei a Bari perché c'è Francesco. Buongiorno Francesco. Non lo sento. Andrea da Firenze. Oggi con... Buongiorno. Parlo con Andrea o parlo con Francesco? Con Andrea. Andrea, buongiorno. Ecco. Allora, io volevo solamente riportare quella che è un po' un mio metodo, diciamo così, per ovviare a quello che sarebbe un carattere un po' fumino. E pian piano nel tempo, visto che sono riuscito a riacquisire una buona serenità, mi chiedo sempre, prima di arrabbiarmi, se quello che mi stanno dicendo è frutto, diciamo così, di uno sfogo, o se è una richiesta di aiuto, perché tante volte, diciamo così, certe provocazioni sono anche una richiesta di aiuto, e quindi cerco un attimino di valutare prima di dare sfogo. Questo mi è servito per calmarmi e per non eccedere io stesso tante volte nella rabbia. Certo, è un bel esercizio, Gianna, quello di Andrea. Sì, certo, certo, perché ci si sposta dal proprio punto di vista, si cerca di entrare nei panni dell'altro, di capire dal punto di vista dell'altro che cosa sta esattamente accadendo, e quindi senza assumere un atteggiamento di superiorità del tipo adesso io ti capisco, adesso ti vengo incontro, ma proprio un cercare di vedere la situazione con occhi diversi, con gli occhi dell'altro. Io direi però, Alessandro, scusami, che dai messaggi che arrivano, da quello, poi per esperienza diretta tutti lo sappiamo, no? Ci sono delle variabili soggettive legate a come le persone funzionano, al temperamento che hanno, e variabili oggettive, magari esterne alla coppia, che la espongono a forti stress e magari ne aumentano la soglia di litigiosità. E proprio ad una di queste variabili oggettive, esterne alla coppia, Star Bene, nel numero in edicola, ha dedicato un articolo. Si tratta delle coppie che portano al lavoro a casa, e cosa che può degenerare in conflitti e in crisi difficili anche da superare. Cerco di stare a casa per le 6, devo passare in una società di broker dopo il lavoro. Perché? Vedo se trovo un lavoro lì. Ah sì? E che lavoro? Quando ero ragazzo mi leggevo un libro di matematica in una settimana. Vado a vedere se hanno un lavoro da offrirmi. Ho capito, che lavoro? Broker. Broker? E perché non astronauta? Non trattarmi in questo modo, Linda. Devo fare un salto a informarmi. Voglio farlo in giornata. Mm-hmm. Pensa invece a fissare qualche appuntamento. Lo so da me che devo fissare degli appuntamenti, lo so. Ne ho già fissati 3 prima ancora che gli studi aprano al pubblico. Ti ricordi che c'è l'affitto la prossima settimana? Mi sa di no! E siamo già con 2 mesi di arretrato. E la prossima settimana diventeranno 3. Io sto facendo i doppi turni da 4 mesi, lo sai questo, Chris? Prima vendi quello che devi vendere e dopo cambi lavoro se vuoi. Linda, è esattamente quello che sto cercando di fare. Questo è quello che sto cercando di fare per la mia famiglia, per te e per Christopher. Alessandro, prima di andare ai mercati, il lavoro sicuramente incide, modifica, assolutamente. A volte manda in crisi la coppia. Avete dei dati interessanti, sì. Ne anticipiamo qualcuno e invitiamo i nostri ascoltatori poi a intervenire proprio sul tema lavoro nella coppia. Nel nostro articolo che si intitola "Chi lavora fa l'amore?", domanda, abbiamo trovato questi dati. Il 70% delle coppie ha delle interferenze sulla sessualità legato ai problemi di lavoro, quindi fa meno sesso. Il 13% degli italiani litigano per le preoccupazioni di lavoro. Il 26% degli italiani pensa che condividere i problemi di lavoro aiuta a non litigare. Essere e benessere. Ecco, ci siamo tornati insieme, meno male, perché abbiamo tante cose da raccontarci e abbiamo citato alcuni dati interessanti presi dall'articolo di Star Bene oggi anche domani. Ecco. Sì. Riguardo al lavoro come elemento di rottura, di crisi, ma in alcuni casi arrivano dei messaggi: il lavoro è un collante perché può diventare occasione di confronto e di intesa. Alessandro, vuoi aggiungere qualche aspetto, qualche spunto? Sì, intervistando i nostri esperti, la cosa che mi ha colpito di più è stata di come la donna e l'uomo prendono il lavoro. Per esempio, quando si parla di addiction del lavoro, cioè quello che porta, si fa coinvolgere troppo dal lavoro, di solito è un uomo. In coppia può essere più risolvibile questa cosa. Quando invece, secondo gli esperti che abbiamo sentito, è la donna che ha un effetto super lavoro anche all'interno della casa, lì suona un campanello d'allarme, perché voi donne difficilmente mettete da parte le emozioni e vi fate soverchiare da altre cose, per quanto voi lavoriate, per cui potrebbe esserci sotto una piccola crisi, diciamo, che sta per Ma io fuori. Chiedo subito alla mia esperta preferita, Gianna, è vero, è così? Ma credo che nel lavoro ci siano forti conflittualità tra l'uomo e la donna, anche perché comunque, nonostante siamo nel 2009, c'è ancora la tendenza da parte degli uomini a considerare il lavoro delle donne come un qualcosa di più, cioè il ruolo della donna rimane quello della casa, della famiglia, dei figli, e poi c'è il lavoro. Spesso le donne questo non lo accettano, giustamente secondo me, perché il lavoro, come dire, ha pari dignità con tutto il resto dei compiti femminili. Allora qui nascono le liti, perché gli uomini sono portati a considerare importante il proprio lavoro e meno importante quello femminile, quindi vivono l'addiction delle donne per il proprio lavoro come un tradimento, come una negazione del proprio ruolo e dei propri compiti, e questo crea grandi crisi, perché come dire, qualcosa che va al di là di quella coppia specifica, ma è proprio un atteggiamento sociale rispetto a quest'idea che le donne comunque restano un po' l'angelo del focolare e che quello debba essere prevalente rispetto a tutto il resto. Vediamo se è un angelo del focolare Barbara, che ci chiama da Trento. Barbara, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho un grosso problema a casa perché il mio titolare è mio marito. Ai. Ecco, quindi è un po' impegnativo. Stiamo insieme quasi 24 ore su 24. Quindi i problemi che sono sul lavoro li portiamo a casa. I problemi che abbiamo a casa li portiamo sul lavoro. Di conseguenza cala anche la voglia di stare insieme. E certo. È molto complicato, molto difficile lavorare insieme, quasi impossibile. Barbara, lei deve proprio lavorare con suo marito, mi chiedo. Assolutamente sì, perché è un lavoro che è molto difficile. Noi siamo ambulanti. E allora... E quindi è un lavoro prettamente familiare. Certo. Difficile trovare un dipendente e per gli orari. No, certo. E quindi... più che la famiglia, insomma, non può essere. Alberto. È quasi una costrizione. Alberto. Direi che Barbara si trova in una situazione molto complessa e proprio per evitare che lavoro e famiglia si trovino così mescolati fino a che non si riescono a definire confini, momenti per l'uno e momenti per l'altro, è molto importante che marito e moglie fissino delle regole, facciano proprio una sorta di contratto in cui intanto definiscono dei tempi che sono puramente per il piacere e non per il dovere, perché altrimenti il rischio ma la testa ti porta è per questo che proprio perché la testa ti porta lì, credo che loro abbiano proprio bisogno anche di staccare, cioè di andare in luoghi che sono altri rispetto a dove è la loro casa e dove è il loro lavoro. Potrebbe essere che un weekend al mese è uno spazio solo per la loro coppia affettiva e non per la coppia lavorativa. Alessandro. Sono d'accordissimo, io non sono un esperto, però posso dire che nella coppia di lungo corso, nella nostra coppia di lungo corso, uno dei trucchi che usiamo di più, e lo facciamo anche quando arrivano i bambini piccoli, perché sono un momento di tensione per la coppia, cambiamo scenario, cioè non ci basta la giornata dedicata a noi, no, proprio prendiamo un weekend e andiamo da un'altra parte, lontano da Milano, in un posto che ci piace, magari dove ci siamo innamorati, e ci prendiamo questo spazio. È dura, è difficile organizzare, però si può fare, non si può fare tutti i mesi, si può fare ogni tanto, bisogna farlo ogni tanto. Allora lì riprendi le dimensioni dell'innamoramento. Gianna, basterebbe anche un'oretta, vero? Un'oretta. Sì, io però sono d'accordo con quello che è stato detto finora sul fatto che la coppia si prenda degli spazi, ma in una situazione come questa penso che sia importante anche prendersi degli spazi individuali, e cioè che ne so, che la signora decida di andare a bere un tè con le amiche e a lasciarsi ma da sola, come dire, come per ridefinire, ridisegnare il proprio ruolo e non sentirsi, questo naturalmente vale anche per suo marito, e non sentirsi in questa confusione di ruoli, di affetti, di situazioni, quindi ridarsi un'identità e difenderla. Ecco perché trovo che almeno da donna, io sono sposata da tanto tempo, sia importante e ricaricante per la coppia la possibilità che ciascuno dei due partner ha di prendersi degli spazi per sé, che non sono spazi rubati alla coppia, ma sono spazi che poi alla fine tornano come nuova linfa vitale per il rapporto. Gianna, è questo, vero? Cioè, assolutamente questo, cioè che in questa situazione di confusione, di mescolanza, uno a un certo punto possa dirsi questa sono io, e questa identità, come dire, precisa e definita, riportarla nella coppia per rimisurarsi. Andiamo a Cristina, che ci chiama da Milano. Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io volevo portare la mia esperienza, se può servire, anche per la discussione che state facendo oggi in radio. E io faccio la libera professione, sono un architetto e dal 2005 convivo con il fidanzato, che invece svolge un'attività da dipendente. Quindi ecco, il primo scoglio che abbiamo dovuto affrontare è che io, lavorando in proprio, ovviamente mi porto anche del lavoro a casa, spesso lavoro anche la domenica, quindi questa cosa qua È stato un po' pesante da sopportare, anche perché da subito si è dimostrata, quindi ancora prima di andare a abitare insieme abbiamo detto: mi raccomando Cristina, cerca di avere gli orari leggermente meno lunghi e di arrivare a casa a un orario decente, ed eventualmente quello che ti serve lo fai poi a casa. Quindi ecco, il nostro compromesso è stato questo, quindi invece che fare le solite le 7, le 8, cerco di arrivare a casa prima. E è molto difficile. Ha funzionato perché... Cristina? Com'è? E questo ha funzionato? Beh, ha funzionato abbastanza, ogni tanto magari c'è un arricciamento di naso perché ci sono i periodi in cui si ha maggior lavoro e che quindi purtroppo nella libera professione è così, quando arriva al lavoro bisogna farlo, magari ci sono dei tempi più morti in altri periodi, però diciamo che ha funzionato. È difficile secondo me che dall'altra parte l'uomo capisca questa problematica della professione quando da parte sua non c'è. Ecco, io credo che sia più facile forse per una donna sopportare un po' di più rispetto a un uomo, ecco, quindi qualche discussione per questo. Questo è sicuro, vero Gianna? Cioè gli uomini, sì, come dicevi tu, fanno un pochino più fatica ad accettare che il lavoro prenda spazio nella vita della loro compagna. E poi bisogna dire che giocano anche in sotterranea quelle che io chiamo i cattivi sentimenti, e cioè un po' di invidia, un po' di gelosia, cioè l'idea che uno dei due abbia più successo, uno dei due guadagni di più. Queste sono particolari che di per sé non hanno nessuna importanza, ma che alla lunga, se nascono le tensioni, possono avere un peso nei litigi della coppia e persino nella crisi della coppia. Essere e benessere. Francesco da Bari, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Benissimo. Buongiorno a lei, grazie dell'invito che, ripeto, è molto... cioè, quello che devo dire penso che sia un problema di tutti quanti. Io sono un libero professionista, sì, e mia moglie lavora presso un ente del paese stesso. Sì. Praticamente che cosa succede? Ha la patente, non guida, si fa sempre portare da me, però mi sono stancato perché non perché? Ce la faccio più. Mi sono stancato perché lei inizia a lavorare alle 8, io essendo un libero professionista, quindi la sera vengo tardi, faccio tardi, le 9, 9:30, quindi vado a letto 10:30, 11, cioè, non dico che ho bisogno di riposare. Insomma, vuole dormire un po' di più, Francesco, no, diciamola tutta. Sì, prima lo facevo volentieri, ma adesso non è che non lo voglio fare. Tenuto conto, l'accompagno quando il tempo è brutto, sì, mi alzo presto perché è giusto che l'accompagni. Beh. Però oggi, ad esempio, è successo proprio stamattina. Avete litigato. Giornata bella. Però la prende bene, Francesco. La prendo bene perché è sempre quello il litigio. Cioè, difatti litighiamo con su, poi facciamo pace. Però certe volte ti resta quel marchio che ti dà fastidio, perché poi la mamma, mia suocera, ecco, parenti serpenti, interviene che ci perdi tu ad accompagnarla, quando è lei che certe volte rompe, scusa il termine, anche a me, nel senso, Franco, mi accompagni al dottore, quando? Adesso? Franco, io proprio adesso che mi veniva da dire vengo a Bari, Franco mi accompagna, non posso più dirglielo. Io lo faccio ben volentieri, però poi c'ho un cognato e una cognata che sono esenti, siccome sono stato buono, sempre sono buono, insomma, Francesco, accompagni sua moglie magari a fare un giretto in macchina, così riprende dimestichezza con la guida, e poi la premi ogni volta che, almeno le prime volte, che prende la macchina, in modo che le manifesta tutta la sua approvazione. Giuseppe dalla provincia di Latina. Salve, come va? Io benino, lei? Ci siamo bene, ci siamo già sentito qualche altra volta. Oh, allora Giuseppe, siamo amici. Bene, bene. Sì, è vero. Senta, volevo dire, le ultime cose che hanno detto. Allora, il signore si... basta un sorriso certe volte. Oh, bravo. Ed invece una delle due signore ha detto, per il lavoro insieme, perché specifichiamo che sono più di 33 anni che sono sposato, e quindi sono capitate diverse cose. Certo. Allora, il lavorare insieme è veramente difficile. È veramente difficile anche quando si perde il lavoro. E lo credo. E diventa veramente una cosa difficile. Il rapporto diventa, non perché quando c'è un rapporto serio di base e affettivo, perché poi se non c'è il grande affetto c'è poco da fare. Beh certo, questo è una condizione. Anche se resta difficile. Senta Giuseppe, vuole darci la sua ricetta? Sì. Sai cosa lo vuole dire? Sto dando proprio una ricetta. I più grossi litigi, che poi non è che sono stati tanti, sono stati un paio proprio abbastanza brutti, perché... Vabbè, ma mi sembra che lei li abbia superati bene, quindi vogliamo da lei la ricetta per una coppia allora, che funziona. Guardi, ho allontanato i parenti, perché noi abbiamo litigato sempre ed esclusivamente, queste litigate insomma un po' più consistenti, per i parenti, esclusivamente per i parenti. E guardi, senza i parenti l'amore trionfò. Guardi, sì, devo dire. Giuseppe, il nostro collante sicuramente se gli amici uno se li sceglie, i parenti se li trova. E Giuseppe, no, io i figli, guardi, io e mia moglie abbiamo figli. Il nostro collante è stato quello. Ecco. E i parenti. Un consiglio a tutti quanti, teneteli lontani quanto più possibile. Insomma, a Natale soprattutto. Gianna. Insomma, allora, ha fatto cose. Piazza pulita, Giuseppe, dice basta, li elimino. Due cose. La prima che volevo dire all'ascoltatore di Bari, che in questo bisogno della moglie di farsi accompagnare, forse c'è un bisogno di mantenere una certa dipendenza da lui. Cioè, sì. Come se lei volesse dirgli, vado a lavorare, sono autonoma, eccetera, però voglio restare in qualche modo, voglio mantenere la dipendenza da te, voglio che tu sia importante per me. Sì. E si può leggere anche da questo punto di vista, certo. Al di là del fastidio di alzarsi presto e di accompagnarla. Sì. Quella dei parenti naturalmente è una questione anche del tipo di parenti che ci si ritrova in giro. L'isolamento qualche volta non fa bene e i parenti, anche se qualche volta sono molesti, hanno anche delle loro utilità affettive che conviene forse mantenere. Allora, noi tutti insieme, come una grande famigliona di parenti, andiamo a salutare Laura Tonatto, che è in linea con noi. Benvenuta, buongiorno. A questa nuova famiglia acquisita. Noi abbiamo litigato, fatto la pace, trovato delle soluzioni, eccetera, e adesso tutti insieme affrontiamo questa atmosfera natalizia con un profumo che, insomma, ci fa sentire anche un po' tutti più buoni. Quando l'atmosfera è profumata, gradevolmente profumata, siamo più ben disposti. Sì, oggi vi parlerò del fior d'arancio, che è un'essenza straordinaria, una delle più preziose è quella siciliana, quindi mi piace pensare a un'atmosfera siciliana oggi molto sensuale, che Luchino Visconti seppe interpretare in modo straordinario, perché nel girare la scena del film Il ballo del gatto pardo volle proprio che si sentisse questa fragranza, perché in tutte le case siciliane a quell'epoca c'era questa tonalità di fior d'arancio meraviglioso. Grande. E allora è bellissimo sentirlo in questa stagione, perché è una tonalità molto sensuale, molto calda, molto avvolgente, che si estrae dal fiore, non dalla scorza, come abbiamo visto ieri. E poi si può utilizzare anche in cucina, immaginiamo la nostra pastiera napoletana, ma anche vi consiglio di provare questo café blanc che si fa in Libano, e cioè una porzione di acqua calda, sì, e una porzione di essenza di fior d'arancio. È una cosa meravigliosa, bevuta a fine pasto per chi come me non ama il caffè. Magnifico. E allora io invito la prossima volta Gianna Schelotto, che le preparerò, se viene una volta in studio con qua in carne e ossa, ti farò un caffè blanc. Va bene. Ma dove si trova in erboristeria l'essenza di fior d'arancio? Ma anche nei supermercati c'è proprio l'acqua di fior d'arancio, che si utilizza proprio per la stessa che si usa per i panettoni genovesi, per esempio, o per la pastiera. Esatto. Perfetto. Ah, fantastico. Vedi Gianna come sei preparata. Allora io ringrazio Gianna Schelotto per essere stata con noi, la promessa è valida, ti aspetto qui. Laura Tonatto, grazie Laura Tonatto, un abbraccio a tutti, ci sentiamo domani. Alberto e Alessandro Pellizzari, no, Alberto Pellai e Alessandro Pellizzari se non vi ho unito, grazie anche a voi, ci avete dato suggerimenti preziosi per l'armonia di coppia, bravi. E grazie, noi invece buon Natale. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 11 con una puntata, ve lo anticipo già, dedicata agli animali.